Oggi con la Chiesa celebriamo e onoriamo la santità di Dio che si manifesta nelle sue creature. Uno solo è il tre volte santo. E tuttavia Maria è la santa madre di Dio e i santi sono un patrimonio che la Chiesa ci propone, basta pensare alle litanie dei santi che vengono recitate sia al battesimo sia al funerale e racchiudono tutta la vita del cristiano. Ora, uno che è santo partecipa della santità di Dio, come la luna risplende non per sua luce propria, ma perché riflette la luce del sole. E ci sono tante diversità di santi per volere di Dio. Da una beata, da una santa di una provincia, a santi che durano nell'onore del cristiano nei secoli. Pensate a San Francesco. Pensate Don Bosco, pensate San Benedetto, questi grandi santi. Io credo che Padre Pio, San Pio da Pietrelcina, sia anche lui uno di questi, perché il Signore ci dà tante prove di come lo mette davanti come modello. Per esempio, io non mi stanco mai, non so quante volte li ho visti, di guardare i suoi due film più riusciti che sono in circolazione e ogni volta ci prego su, ogni volta ne traggo motivo di meditazione e di riflessione e di conversione. O ancora Padre Pio è invocato tanto da noi esorcisti. Io ho qualche piccolissima esperienza durante un esorcismo, magari dire: oh Padre Pio, vieni in mio soccorso, lascia stare il piccoletto. Una volta mandalo via, oppure un'altra volta è il più gettonato. E un'altra volta ancora, sì, la persona che è sotto esorcismo, attraverso cui il maligno parla, si gira verso un angolo del locale dove non c'era nessuno e gli dice: vai via, e gli sputa lì. E c'era nessuno. Devo dedurre che spiritualmente fosse presente il santo ad assistere me, poveretto, in questa azione, lui che è sempre stato esperto di combattimenti contro il maligno. Oh, cari cristiani, io vi auguro di saper incontrare la santità di Dio nei santi e attraverso di loro ritornare a Dio. Quante cose uno potrebbe imparare dalla vita di Pio. Tra le varie cose io sottolineo la sofferenza, la messa, da lui abbracciata l'una e l'altra con una partecipazione intima, la croce che lui ha portato. Ancora una volta restavo sorpreso dal leggere un trafiletto in cui si diceva che è diventato professo frate, ha dovuto passare 6 anni a casa sua per la salute. Oh, 6 anni, eh? Uno diventa prete per fare prete, uno diventa frate per fare frate, ma che? Deve ritornare a casa sua, che uno abbandona perché la casa sua gli dice molto di meno della sua parrocchia e del suo convento. Eppure ha dovuto stare lì 6 anni. Quello che ha patito per le stigmate, lo sapete meglio di voi, quello che ha patito per l'attacco di gente cosiddetta cristiana, lo sapete meglio voi, anche prelati, anche gente con cariche nella Chiesa, quanto ha patito questo sacerdote, questo frate. E allora, cari amici, io vi suggerisco, andiamo a Dio. Stiamo celebrando l'Eucaristia, che è piena di parola di Dio. C'è anche un salmo molto bello oggi. Lasciate che vi rubi ancora 2 minuti per leggerlo, perché mi piacerebbe, pur amando i santi, come la parola di Dio non c'è niente. E mi piacerebbe che imparaste sempre più ad amare i salmi. Confida nel Signore e fai il bene. Abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Affida al Signore la tua via. Confida in Lui ed Egli agirà. Farà brillare come luce la tua giustizia e il tuo diritto come il sole a mezzogiorno. Sta in silenzio davanti al Signore e spera in Lui. Amici, dovete imparare voi a leggere i salmi, a gustarli. Io non ve lo voglio commentare, ve lo voglio solo leggere e sottolineare. Sta in silenzio davanti al Signore, spera in Lui. Imparate, amici, a ritornare in chiesa, a fare la visita al Santissimo Sacramento. Quante ore Padre Pio ha passato in chiesa davanti al Santissimo Sacramento, lui, personalmente. Ha fatto ore e ore di confessionale per gli altri, ma ha nutrito il suo rapporto con Dio personalmente. Se non abbiamo questo stare da soli davanti al Signore, davanti all'Eucaristia, non arriveremo mai a quell'intimità con Dio che hanno provato i santi. Sta in silenzio davanti al Signore, spera in Lui. Desisti dall'ira, deponi lo sdegno. Quante volte arrivi davanti al Signore tutto agitato? Se sei capace di star lì almeno mezz'oretta, vai via, che il problema ce l'hai ancora, ma tu sei in pace. Non irritarti, ti verrebbe solo del male. Sono stato fanciullo e adesso sono vecchio, non ho mai visto, dice il salmista, non ho mai visto il giusto abbandonato, né i suoi figli mendicare il pane, perché ogni giorno egli ha compassione e dà in prestito e la sua stirpe sarà benedetta. Qualche volta vi parlerò di che cosa vuol dire fare dei prestiti, perché è un'arte, sapete, è per quello che pochi la fanno, o la fanno le banche speculando. Ma tra di noi non si fanno più i prestiti, oppure si fanno in maniera sciocca, in maniera avventata. Ma la sapienza dovrebbe guidarci anche in questo. I santi e la parola di Dio, amici.